Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a tutti a questa puntata nuova di Mebius. Ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera a tutti. In questa puntata ci tatuiamo all'inizio. Sì, perché partiamo raccontando i tatuaggi di ieri e i tatuaggi di oggi. E poi? E poi psicopatologia della vita quotidiana, possiamo chiamarlo così, c'è un convegno grosso a Milano che affronterà questi temi. Bene, partiamo. Ogni tanto dobbiamo ritornare a parlare di Ozi, l'uomo del Similaun. Lo facciamo oggi perché si è scoperto che aveva un anellino alle orecchie e portava i jeans bassi. Sdrucciti. No, in realtà però aveva ben 61 tatuaggi. Vedi che era sono moderno. Sono stati studiati approfonditamente, anzi, sottolineo profondamente, perché poi vedremo come si sono svolte le analisi, da un team italiano. E qui abbiamo il coordinatore, abbiamo il professor Zink, che è già stato nostro ospite, quindi sì, gli diamo il benvenuto. Buonasera, professore. Buonasera. Lei è direttore dell'Istituto per le Mummie e l'Iceman dell'Eurac di Bolzano. E ecco, noi abbiamo già parlato di Ozi diverse volte perché voi ci state lavorando tantissimo. Una delle ultime scoperte è proprio sui tatuaggi. Ne possiede ben 61 in diversi punti del corpo, è così? È così, giusto, sì. Noi per la prima volta abbiamo veramente identificato tutti i tatuaggi dell'uomo del Similaun. Perché prima il numero non era molto chiaro, perché tanti tatuaggi non si vede bene così, con il nudo, diciamo, ma abbiamo utilizzato una nuova tecnologia fotografica che utilizza tutto il range della luce, e così abbiamo identificato adesso che ci sono 61 tatuaggi. Ecco, avete praticamente utilizzato questa tecnologia che va dall'infrarosso all'ultravioletto, quindi siete riusciti a vedere diversi strati anche della pelle, quindi della profondità con la quale erano stati fatti questi tatuaggi. E ci dica qualcosa, intanto, che tatuaggi sono? Quelli che noi vediamo adesso, delfini o farfalline, insomma. No, sono tutte linee che sono applicate in parallele. Allora, le linee sono tra 7 mm a 4 cm e sono tutte in parallele, sono anche messe in gruppi di 3 o 4 strisce. Sono anche due grosce sul corpo di Ozi, ma niente simbolo, niente come altri tatuaggi che vediamo oggi o in altre culture anche. Ma le chiedo, non simboli come i nostri, ma potrebbero aver qualcosa. Avuto allora qualcosa, qualche significato che probabilmente è molto difficile da interpretare oggi? Ma sì, si pensa, finora si abbiamo pensato che questo potrebbe essere un tipo di trattamento, perché tutti i tatuaggi sono stati a posizione dove lui aveva qualche problema della salute, qualche dolore, per esempio alla schiena, alle gambe, dove lui ha avuto problemi perché lui camminato molto, no? Allora ha avuto un po' di artrosi e tutti i tatuaggi sono vicini a questi punti dove lui aveva i problemi. Solo che adesso abbiamo trovato uno che ha sul corpo, sul fronte, sul torace. Allora questo è il primo tatuaggio che non è vicino a una di queste zone dove lui aveva avuto problemi. Forse questo ha un altro significativo, ma potrebbe anche essere che lui ha avuto altri problemi. Che noi ancora non sappiamo, certo. Altri dolori che non sappiamo ancora. Ma la connessione è importante base adesso. Ma la connessione con i dolori è perché forse erano, insomma, si pensava fossero curativi? Sì. Pensava che sono forse terapeutico, forse anche come un tipo di acupuntura. Sono persone che credono che questo è il primo segno di una acupuntura anche nella nostra regione, nelle Alpi. Ma per approfondire questo ci serve adesso altri lavori, perché noi abbiamo solo per adesso identificato tutti i tatuaggi e dove ci sono. C'è ancora da capire. E a proposito di questo, avete pensato a quale poteva essere la tecnica e anche la sostanza che ha usato, o che pensate possa aver usato qualcuno su di lui? Ma sì, la tecnica conosciamo già, perché hanno utilizzato una cosa come un coltello con di pietra che hanno utilizzato in questi tempi, e hanno messo i punti dentro la pelle e poi hanno messo dentro il carbone. Il carbone, sì. Allora sono tatuaggi veri, diciamo, sono tatuaggi permanenti, che non è una grande differenza tra i nostri tatuaggi che abbiamo oggi, sì. Con una punta acuminata, però, qualcosa di simile anche in questo caso, come si fanno una oggi? Una punta, sì, si hanno tagliato un po' la pelle, la epidermis, e poi hanno messo dentro questo capone. Con degli strumenti, immaginiamo, di pietra o di metallo? Ma forse di pietra, perché metallo c'era poco, c'era solo questo ascia di rame, ma tutto il resto era fatto di pietra, come anche la freccia, il resto, anche il coltello ha fatto di pietra. E pensate che se li sia fatti da soli o che qualcuno possa averlo in qualche modo curato, applicato insomma questo tipo di inchiostro, carbone? Ma siamo sicuri che ha fatto qualcuno, perché tanti tatuaggi sono sulla schiena, allora è impossibile che lui ha fatto da solo. Sono più o meno fatto uguali, diciamo, la stessa tecnica è stata utilizzata per tutti i tatuaggi, allora forse c'era una specialista che ha fatto i tatuaggi. C'era un tatuatore. Quei negozi che ci sono adesso, vedi, cioè. questo periodo. Certo che questo omino ci racconta delle storie ogni volta. Fantastiche. Ecco, e la cosa interessante è che riesce a raccontarcele in continuazione, perché si sviluppano tecnologie tali per tirarle fuori. Ecco, infatti, se ci dà qualche indicazione in più anche sulle tecnologie avanzate che voi avete utilizzato lì a Bolzano. Ma sì, questa è una tecnologia che hanno sviluppato una ditta a Roma, Marcello Meles si chiama. Il collega, lui ha sviluppato questa tecnologia per studiare i quadri, per capire se sono diverse tracce, diversi livelli di un'immagine. Perché viene utilizzata sulle opere d'arte, perché è una tecnologia non invasiva. Esatto, ha sviluppato lui ha sviluppato una software per poi analizzare le immagini, perché si deve fare tante immagini. Su ogni pezzo del corpo abbiamo fatto 7 immagini con questi diversi filtri, alla fine lui ha studiato tutti al computer con questo software, poi abbiamo messo, diciamo, tutto insieme e abbiamo poi visto tutti questi tatuaggi. Sul vostro sito avete sviluppato, insomma, attraverso sempre la tecnologia, la possibilità di visitare virtualmente Ötzi, ed è possibile anche vedere in maniera abbastanza dettagliata anche questi tatuaggi. Sì, noi abbiamo già sviluppato questo sito con le fotografie anche con in alta risoluzione, si chiama Iceman Photoscan, e qui si può vedere tutta la mummia in veramente molto dettaglio. E adesso vogliamo anche aggiungere questi nuovi tatuaggi, perché finora ci sono quelli che abbiamo già conosciuto prima. Ma adesso ci sono i nuovi, certo. Sì, questi dobbiamo aggiungere anche questi nuovi. Ecco, ci ricordi l'indirizzo? Sì, l'indirizzo è iceman.eurac.edu. Allora, Iceman, uomo di ghiaccio. Iceman.eurac.edu. Edu. Ok, perfetto. Edu, esatto. Va bene, professor Zink, intanto noi in trasmissione continuiamo a parlare di tatuaggi, tornando un po' all'età moderna dal punto di vista antropologico, intanto però noi la ringraziamo e sono sicura che ci sentiremo presto. Ok, sì, grazie. Arrivederci, buono. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. E adesso i tatuaggi oggi, no, magari forse negli ultimi due secoli. Sì, tatuaggi oggi, sì, e c'è stata, un'enorme evoluzione sia dal punto di vista antropologico, sociale, hanno tantissimi significati, forse non hanno proprio quell'aspetto terapeutico di cui ci ha appena parlato il professor Zink, non lo credo proprio. Però direi di parlarne con una persona assolutamente esperta. Allora, diamo il benvenuto ad Alessandra Castellani, buonasera e benvenuta. Buonasera. Lei è antropologa, per l'appunto, e anche autrice di un libro che si intitola Storia sociale dei tatuaggi, edito da Donzelli. Ecco, a questo proposito le vorremmo chiedere, insomma, l'aspetto terapeutico diciamo che non c'entra più, Ötzi ormai è lontana anche dal punto di vista del tatuaggio, però... Non lo darei per certo. Ecco, perché in realtà ci sono alcune civiltà che lo utilizzano ancora in questo modo? Non tanto per questo, ma perché in realtà in Occidente l'uso, o se si vuole l'abuso che si è fatto del tatuaggio, ha anche a volte una valenza terapeutica per le persone, cioè a volte le persone si tatuano qualcosa addosso che per loro significa davvero molto. Terapia mentale. Il tatuaggio diventa una sorta di simbolo con cui si cresce, si cambia, si statuisce la fine, che ne so, di un amore, oppure si ratifica qualcosa con forza che... sotto certi aspetti ha un valore. Una terapia più psicologica, molto, certo. Molto, diciamo, ovviamente del fai da te terapeutico. Però in generale invece, anche se andiamo indietro di 2, 3 secoli, 4 secoli, io non so, per esempio, ma i romani si tatuavano? I romani non si tatuavano e non si tatuavano gli antichi greci, ecco. Mentre gli antichi egizi si tatuavano peraltro con degli aghi che potrebbero ricordare sagipuntura, questa agipuntura di cui si diceva prima, della mummia di prima. Però in realtà i romani non si tatuavano e il tatuaggio era chiamato stimmata. Cioè, era il marchio che si faceva agli schiavi, a coloro che non erano, come dire, non avevano la proprietà del proprio corpo. Ma chi era... doveva essere marchiato, riconosciuto in negativo? Potevano essere marchiati come viene marchiato il bestiame, insomma, quando tu non hai una tua identità. Una tua umanità, per l'esattezza, no? Che poi è la stessa cosa con l'olocausto, i numeri sul braccio agli ebrei. Certo. Cioè, quando tu non hai un'umanità e hai un marchio addosso. Ecco, qui però ci sono aspetti diversi, perché ad esempio, qui stiamo parlando appunto di 50 anni fa, però i tatuaggi già allora avevano anche dei significati anche estetici, insomma, venivano fatti anche per bellezza, anzi. So, penso ai Maori. Sì, Maori è un caso bellissimo, interessantissimo. Ovviamente quando James Cook nel 700 arriva in Nuova Zelanda, dove stavano i Maori, vede questi guerrieri tatuati in faccia con il moko, che è un tatuaggio facciale che stabilisce sia l'identità individuale che sociale di un individuo. E sono delle spirali molto belle che seguono, come dire, la conformazione del viso, quindi proprio veramente ratificano l'identità, l'unicità di una persona in qualche maniera. Quello in quel caso appunto era un tatuaggio che incuteva particolare paura, come d'altronde, tornando ai nostri romani, loro non si tatuavano, ma i popoli nemici di cui avevano particolare paura si tatuavano, per esempio i germani, no? C'è Tacito che ci descrive proprio come mentre i germani sono di fronte nel campo avverso, proprio quei tatuaggi incudono tanta paura ai soldati romani, tanto che Tacito dice: per primi sono sconfitti gli occhi. Ecco, nel campo di battaglia, vedere di fronte, diciamo, qualcuno tatuato, anche Giulio Cesare, no? Cioè, ha di fronte i Pitti, i britanni che sono tatuati, o dipinti sulla faccia, a volte non è chiara la distinzione. Ecco, questo incute particolare paura, come hanno... Come se fossero delle maschere. Maschere che spaventano fortemente, insomma, però perché non, certo, c'era nessuna familiarità con i tatuaggi, tantomeno con i tatuaggi facciali. Lei ci sta descrivendo però tutte funzioni che hanno così appunto un forte obiettivo, carattere deterrente e spaventoso. Quando invece diventano vezzo, piacere, insomma, piacere e bellezza? Ma ci sono state, diciamo, più ondate successive. Diventano oggetto esotico da maneggiare proprio con James Cook. James Cook fu il primo a introdurre in Europa la parola tatuaggio, perché appunto non esisteva, c'era la parola stigmata, che ricordo rimanda alle stimmate, quindi alla testimonianza del sacrificio cristiano. Cioè, non c'era nessuna tradizione in proposito, proprio perché il corpo nell'antica Grecia e poi, diciamo, nel Rinascimento, nell'Umanesimo, è qualcosa che non va alterato, non ha artifici, infingimenti, ma deve essere al naturale. Ecco, c'era, sì, questa cosa qui molto forte. Però l'idea, come dire, che possa essere oggetto del desiderio un corpo tatuato, in realtà parte proprio più o meno nel 700, quando si importano i primi tatuati dall'Estremo Oriente che si esibiscono nelle corti. Allora si vedono questi corpi tatuati che suscitano meraviglia per la prima volta. Poi di tutto questo immaginario, diciamo, settecentesco, in termini positivi sarà ripreso molto dopo, alla fine dell'Ottocento, nell'elite, pare che molti aristocratici si tatuassero, soprattutto chi era a distanza nell'estremo oriente, in Giappone, aveva come ricordo magari di una lunga carriera all'estero un tatuaggio fatto lì come souvenir, No. Senta, invece in Africa, dove le maschere, le pitture sul volto sono molto diffuse, c'è la pratica, c'è stata anche in antichità? Ma tanto, là c'è stata soprattutto la scarificazione, che è un argomento che io conosco meno, lo dico chiaramente, però la scarificazione è quando tu ti pungi e sostanzialmente la tua pelle esce un po' a sbalzo, una sorta di cicatrice in rilievo. Poi, che ne dire, tatuarsi, cioè un disegno, diciamo, emerge più facilmente su una pelle più chiara, questo anche questo è vero. E poi invece si arriva, diciamo, negli ultimi, non so, 20 anni possiamo dire, in cui c'è effettivamente Un uso spettacolare, una moda addirittura, insomma, un uso spettacolare, infatti, dei disegni sulla pelle. Sì, certo. A un certo punto qualcosa che era nato nelle culture giovanili, tra i punk, gli herlisti che si tatuavano il logo dell'Harley Davidson o la svastica, insomma, che non era una cosa insomma, tra i punk che si facevano questi tatuaggi tribali che ricordavano appunto questi tatuaggi dell'estremo oriente, no? Della Polinesia, dei Maori, come dicevate voi, ecco, là inizia improvvisamente un passaggio per cui il tatuaggio da segno in viso, mal visto, segno del marchio che tu hai in quanto vittima, invece si trasforma in qualcosa che mano a mano diventa un segno di autoaffermazione, di identità, di anche di rivalsa, di voler dimostrare di essere qualche cosa. Io mi ero avvicinata ai tatuaggi perché precedentemente avevo fatto una ricerca socio-antropologica tra gli skinhead di destra in Italia nei primi anni 90 e questi si tatuavano tutti, insomma. C'è infatti questa sorta di voler appartenere ad un gruppo, anche ad esempio la mafia russa, la mafia siberiana, insomma, hanno queste simbologie che si tatuano sul corpo appunto per l'appartenenza ad un clan. Naturalmente c'è, diciamo, l'appartenenza a un gruppo, ti fai lo stesso tatuaggio e quindi lo ratifichi anche con un rito di passaggio, no? Cioè, non so se vi ricordate il film di Cronenberg, Le promesse dell'assassino, a proposito della mafia russa. Ecco, quello sì, un segno di aggregazione, di identità condivisa, non solo individuale, che è un segno forte, ma fate la considerazione che si tatuavano anche quelli della Camorra. Ci sono libri bellissimi sui tatuaggi dell'Ottocento in Italia, in cui ci viene spiegato come i camorristi si tatuavano per appartenenza ad una famiglia piuttosto che ad un'altra. Ma adesso uno dei più famosi tatuatori giapponesi, devo dire che ha addosso dei tatuaggi meravigliosi, peraltro Ryoshi 3, adesso un signore che comincia a essere anziano, insomma, se voi, io sono andata a intervistarlo a Yokohama, oddio, sta sempre in giro per il mondo, quindi si può vedere un po' ovunque, aveva una falange di meno, cioè apparteneva alla Yakuza. Se l'era tagliata nel rito della Yakuza. Il rito di affiliazione alla Yakuza prevede, come dire, che una falangina così si butta via. Si butti via, stai a guardare. No, però questo è molto interessante perché questo dà l'idea anche di quanto il tatuaggio sia stato soprattutto un segno di appartenenza molto forte, una scelta radicale che segna un passaggio molto forte da un'identità a un'altra, insomma, da una persona a un'altra, no? Appunto l'affiliazione anche nelle mafie o in altre società criminali. Questo si è trasformato, certo, fortemente. Dunque, abbiamo parlato del passato, abbiamo parlato del presente, nel futuro cosa ci aspettiamo dal tatuaggio? Che cosa ci può rappresentare? Una domanda da $100,000. Cioè, io è chiaro che il tatuaggio a un certo punto è diventato fortemente di moda e molti testimonial sono tatuati, FedEx per Kingsley o semplicemente Zombie Boys, no? Che ha fatto tutte le varie, quello tatuato dalla testa ai piedi con la faccia tatuata come fosse uno scheletro, no? Ha fatto le campagne per Thierry Mugler, cioè, insomma, però c'è una strana contraddizione di fondo, perché la moda implica che tutto passi in fretta, si fonda sull'idea che passi tutto molto in fretta. Sì. Sì. E il tatuaggio no. E quello ti rimane. C'è poi questa immagine drammatica di una persona di 90 anni completamente tatuata, che è una roba che non riusciamo a mettere in E che però forse ecco, questo è il futuro, cioè ci abitueremo, ma in maniera molto tranquilla. Insomma, è molto strano, devo dire, questo anch'io mi chiedo, però effettivamente c'è una contraddizione di fondo, ma io vedo dei tatuaggi che magari negli anni 90 erano bellissimi e poi scadono, certo. Sono, ma non perché sono invecchiati, cosa che può anche piacere a chi si tatua, ma semplicemente perché quel disegno è out. I tribali, per esempio, negli anni 80-90 erano considerati bellissimi e anch'io li trovavo bellissimi, certo. Poi hanno avuto degli anni in cui ci sono apparsi bruttissimi e poi sono tornati di moda, però è un po' strano con il fatto che appunto sono un segno permanente. Beh, perché il quadro si butta via, ma il tatuaggio è un bel problema, perlomeno lo metti in cantina e poi lo ritiri fuori. Invece quando andare a vivere, anche il vestito lo ritiri fuori in cantina, quando va il vintage da quella parte, un tatuaggio no. Però ovviamente chi si tatua con intenzioni molto chiare, con una consapevolezza molto forte, nel tatuaggio vede un segno che riguarda, come dire, che lo rappresenta fino in fondo. Va bene, grazie davvero per questo viaggio anche nel tempo. Grazie Castellani, buon lavoro. Buon lavoro. Arrivederci. Da lunedì prossimo, 23 fino al 26, si tiene il 19° congresso della Società Nazionale di Psicopatologia. Ha un titolo significativo: Psicopatologia in tempo di crisi, stress, vulnerabilità, resilienza. La cornice è quindi quella della contemporaneità, della grande crisi che tutti conosciamo e dei suoi effetti sullo stato d'animo delle persone, sulla mente, effetti che naturalmente vanno da un livello di ansia che credo ci riguardi tutti fino a patologie mentali gravi. In un incontro per la presentazione del congresso, il professor Carlo Altamura, che è presidente della Società di Psicopatologia e anche ordinario di psichiatria all'Università di Studi Milano, ha descritto le specificità rispetto a un passato pre-crisi del disagio contemporaneo. Sentiamo. C'è un cambiamento anche in prevalenza di patologie, dislatentizzazione di certi tipi di patologie che rimangono meno, molto più edulcorate da un certo sistema più protettivo, più organizzato, tra virgolette, per l'individuo, di quanto non lo sia adesso, dove l'individuo viene scaraventato in una problematica abbastanza difficile fin da quando comincia a cercarsi questo lavoro che non riesce a trovare. Mentre prima andavi in automatico, andavi in istituto tecnico, c'era il geometra, le cose, in automatico trovavi da fare il geometra, in automatico trovavi da fare il ragioniere, in automatico trovavi da fare il tecnico informatico. Allora tutti questi mestieri organizzati per essere attuati all'uscita, all'inizio, all'esordio della vita adulta di un individuo, adesso sono tutti saltati. Questo qui, che è un problema sociale evidentemente, ha tutta una serie di risvolti sulla salute mentale. È fondamentale studiare quello che è il substrato, cioè il ragazzo che esce, che tipo di substrato ha dal punto di vista biologico, quindi che la familiarità, ci possono essere disturbi depressivi in famiglia, che se questo avesse trovato lavoro non si sarebbero slatentizzati o si sarebbero rivelati, ma che si rivelano anche precocemente in questo ragazzo che viene frustrato dal non trovare un fisco da fare, o voglia di farsi una famiglia che non può farsi. Quindi queste cose qua evidentemente vanno approfondite e capite, perché la modificazione di struttura non è transitoria, è profonda. Questo che volevo dire, questa è la crisi del 29, che secondo me è ancora più profonda della crisi del 29. Ma se torniamo indietro nel tempo, 50, 60, 70 anni fa, non incontriamo un mondo, una società nella quale l'insicurezza era tremenda, molto più che adesso? Pensiamo a quelle generazioni nate alla fine dell'Ottocento che si sono fatte due guerre mondiali in 40 anni. Allora ho chiesto proprio a Carlo Altamura: com'è che oggi si vive così profondamente questa insicurezza? In fondo, una volta la nostra specie incontrava ben di peggio. Il discorso è che quando la precarietà è incorporata nella nostra esistenza, come era in quei tempi in cui tutto era cosiddetto precario, che noi la mettevamo in conto. Il soggetto nasceva col senso della precarietà e coltivava questo senso. C'erano riferimenti ideali, tra l'altro, che oggi non esistono più, e soprattutto, ripeto, la precarietà era qualcosa che era un imprinting del soggetto stesso. Quindi uno si organizzava alla precarietà. La società che abbiamo vissuto, che stiamo finendo di vivere adesso, era una società invece che era organizzata alla superare il precario con la medicina che ti assicura la vita, eccetera. Però in ambito sociale è ancora più distruttiva la faccenda, perché non abbiamo assolutamente più riferimenti. Oggi ne eravamo addestrati ad avere un'organizzazione di vita e tutto questo è saltato in aria. C'è un'idea sbagliata che credo molti di noi hanno, e cioè che il disagio mentale è analogo, che ne so, a un agente chimico che arriva e colpisce tutti allo stesso modo. Invece non è così. Ho chiesto di spiegare questo aspetto ad Alessandro Rossi, docente di psichiatria all'Università dell'Aquila. Il modello piuttosto deterministico, no? Per cui l'esposizione a una particolare situazione di vita o l'avere una particolare vulnerabilità, in particolare in psichiatria abbiamo studiato per esempio i figli delle persone affette da malattie mentali avessero quasi un destino in qualche modo predeterminato, si sta rivelando, non dico fallace, ma si sta rivelando tale da essere integrata con altri concetti che stanno emergendo, che sono quelli che a parità di evento estremo stressante vi è una ampia variabilità degli esiti e per fortuna la maggior parte delle persone resistono in condizioni estreme e non sviluppano patologie. Per cui se fino agli anni 80 e 90 si era particolarmente interessati a studiare perché le persone sviluppavano malattie, oggi ci stiamo rendendo conto che è altrettanto importante studiare perché le persone non sviluppano malattie. Lo studio delle caratteristiche delle persone che non sviluppano la malattia ci fa sviluppare delle strategie miranti alla prevenzione. Per fare un esempio estremo, no? Per vedere quanto questo cambiamento di paradigma sia importante, ci sono addirittura dei casi, voi li verificate, di gente che in condizioni di stress migliora le proprie performance. Assolutamente sì. C'è questo concetto che è quello del cosiddetto post-traumatic growth, cioè della crescita post-traumatica. Vi è una quota relativamente esigua, ma non trascurabile, di persone che in seguito a condizioni estreme addirittura hanno un miglior funzionamento di quanto non precedente all'esposizione alla situazione stressante. Adesso ritorno con il professor Carlo Altamura. Buonasera, Altamura. Buonasera, che è qui, buonasera a voi. È qui con noi in viva voce perché c'è un'ultima domanda che volevo farle ed è questa. Allora, di fronte a queste gravi crisi ovviamente non c'è la terapia psicologica per evitarle, però le chiedo invece, a partire dalla vostra esperienza, si potrebbe fare di più gli enti vari, pubblici, magari anche privati, ospedali, non lo so, insomma le strutture che abbiamo in un paese che intervengono sul sociale potrebbero fare qualcosa di più per migliorare la situazione? Sì, direi sicuramente, anche non è difficile fare qualcosa di più perché fino adesso non si è fatto, non si è fatto niente, quindi diciamo che partiamo da una base uguale a zero. Ed è questo è un po' strabiliante, devo dirle, come mia osservazione iniziale, perché l'Italia è un paese che ha un'alta civiltà dal punto di vista tra i paesi occidentali, dal punto di vista sanitario, la sanità nazionale è uno dei migliori sicuramente tra i paesi occidentali. Premesso questo, direi che quello che bisognerebbe fare fondamentalmente anzitutto creare un collante fra la medicina di base, che è dove fondamentalmente arrivano questi tipi di problemi, e i centri specialistici. Quindi questo è il primo punto uno, quindi questo dovrebbe essere creato a livello regionale, perché basterebbe chiedere alle regioni di stimolare, diciamo, nella creazione di questi rapporti, questi collegamenti, certo. Collegamenti, questo è il primo punto. Il secondo è quello di creare degli osservatori a livello, diciamo, regionale o macro regionale, direi, come si parla oggi, cioè di accorpamento di più aree, e quindi a questi osservatori dare una funzione di coordinamento, di contabilizzazione in un certo senso di tutti questi numeri che possono arrivare dal medico di base su problematiche di un certo tipo, di una certa portata. E quindi poi a quel punto chiaramente queste problematiche devono essere poi viste in qualche maniera inviate o prese in carico o in ogni caso esaminate in qualche maniera. Ma insomma, però ascoltandola sembrerebbe qualcosa che insomma sta assolutamente nel possibile, effettivamente viene fuori una mancanza di comprensione dell'entità del problema. Certamente, guardi, è una cosa che io credo che basterebbe ottimizzare in un certo senso le risorse attuali, non c'è bisogno di fare investimenti particolari, ma noi l'abbiamo fatto qui a Milano, al Policlinico, l'abbiamo fatto in maniera autonoma, assolutamente volontaristica, qualcun altro l'ha fatto, qui e là si vedono queste robe, ma queste robe non sono coordinate, il Ministero della Sanità, il Ministero della Salute ovviamente, io credo che avrebbe assolutamente la necessità di fare un tavolo insieme ai medici di base, insieme agli specialisti, vari specialisti per cercare di in qualche maniera cercare di razionalizzare, di inquadrare quello che si può inquadrare di un fenomeno che non tende a ridursi, ma sicuramente io credo assistiamo esattamente all'opposto, al fatto che stia aumentando. Sta crescendo, infatti, lo diceva anche lei poco fa. Grazie professor Altomura e buon lavoro. Grazie a lei e buonasera, arrivederci. Siamo andati lunghi, ho solo pochi secondi per dirvi buona settimana a tutti e a tutte. Ci vediamo qui fra 7 giorni.